America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Giacarta in Indonesia al seguito del presidente Obama nella sua missione asiatica, Mario Platero. Siamo arrivati a Giacarta per tempo perché siamo partiti da Delhi alle 3:30 del mattino con un volo di 6 ore per l'Indonesia. Obama ha già avuto un paio di bilaterali con un messaggio di fondo: Islam e democrazia funzionano, l'Indonesia è l'esempio lampante di un processo che servirà ad esempio ad altri paesi islamici anche in Africa che restano guidati da regimi totalitari. Domani le visite ai luoghi dell'infanzia del presidente americano, che come sapete è stato qui a scuola perché sua madre si sposò con un indonesiano e dunque passò alcuni anni alle elementari qui a Giacarta. Bene, vi dicevo del viaggio in Indonesia. Se il viaggio in Indonesia è appena cominciato, e terminato quello indiano, una 3 giorni, è stato il viaggio più lungo del presidente Obama all'estero. Abbiamo con noi ai microfoni di America 24 Federico Rampini, corrispondente degli Stati Uniti, inviato editorialista di Repubblica. Federico, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei parlare di questo viaggio indiano, ma avendo scoperto, rileggendo il tuo libro che hai scritto sull'India, che sei un grande esperto dei Beatles e dei Beatles che sono venuti qua in India, allora raccontaci un po' dell'esperienza indiana dei Beatles. Per scrivere l'esperienza indiana feci molte ricerche anche oltre la mia naturale passione per i Beatles, perché quell'episodio del 68 fu tipico di una lunga serie di innamoramenti dell'Occidente per l'India, che sono stati anche degli innamoramenti fatti di equivoco, di raffigurazione di un'India immaginaria, leggendaria, spesso molto diversa dalla realtà. Per esempio, i Beatles finirono nelle mani di un guru che era un imbroglione, un millantatore, un truffatore, un maniaco sessuale che tentava la notte di insidiare Mia Farrow e la sorella Prudence, che era quella a cui poi John Lennon e Paul McCartney intitolarono la canzone Dear Prudence. Qual è stata l'ispirazione indiana nel loro album? Cioè, qual è stata poi la loro produzione? Visto che ci dai anche riferimenti tecnici su canzoni e contenuti. Sì. I Beatles approfittarono del soggiorno in India per studiare molto la musica indiana. Ebbero anche dei corsi da Ravi Shankar. Il più influenzato di tutti è George Harrison. George Harrison, peraltro, aveva già cominciato a studiare sitar con Ravi Shankar prima ancora dei viaggi in India. E la produzione più influenzata dall'India è quella del famoso album bianco. Ma George Harrison si possono trovare da Norwegian Wood, che voi avete trasmesso ieri, fino a While My Guitar Gently Weeps, delle forti influenze di Shankar e della musica indiana. Ecco, Federico, ma qual è la tua impressione di questa nostra percezione dell'India? Reale? Finta? Ma ecco, è sicuramente da tempi antichissimi che i viaggiatori europei occidentali in India hanno trasmesso un'immagine molto forte, molto pregnante della civiltà indiana, che è una civiltà affascinante, ricchissima, molto più antica della nostra. Però ecco, io ho trovato anche in questa visita di Obama questa tendenza degli occidentali a raffigurarsi un'India che non è necessariamente l'India reale. E questo l'ho trovato per esempio evidente nel continuo richiamo di Obama a Gandhi. Il Mahatma Gandhi è tuttavia una figura oggi molto molto marginale nell'India contemporanea. Da un punto di vista concreto, ecco, per esempio quando ne parlava agli studenti l'altro giorno nel town hall meeting, come reagivano questi studenti? Beh, chiaramente li ha un po' spiazzati, perché citare Gandhi, ricordare il profeta scalzo della non violenza, un uomo che ha vissuto tutta la sua vita nella povertà, era un po' curioso per questi studenti, che erano tutti dei eccellenti laureandi delle migliori università di Mumbai, compresa l'università di Saint Xavier, i quali aspirano per lo più a diventare dei businessman, degli imprenditori, ad avere successo, a diventare miliardari. Quindi arriviamo alla conclusione di questo viaggio, appunto il discorso, soprattutto l'annuncio che ha fatto Obama di voler ufficialmente sostenere l'ingresso dell'India nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come membro permanente. Ecco, qual è un po' la tua sensazione alla fine di questo viaggio da un punto di vista concreto, business e politico? Intanto che Obama ha dato molto all'India, perché questo annuncio dell'appoggio americano per il seggio permanente al Consiglio di Sicurezza è una cosa importantissima per gli indiani. Così come le parole dure che ha usato nei confronti del Pakistan sul fatto che non deve tollerare i santuari del terrorismo sul suo territorio, deve punire i colpevoli della strage di Mumbai del novembre 2008, anche queste sono parole importanti per l'India, ha portato a casa un po' di contratti, non tantissimi, non è stata una visita ricchissima da quel punto di vista, però quel che gli è bastato, forse direi che addirittura la cosa più simbolica che ha incassato è stata quella dichiarazione di Jeff Immelt della General Electric, che lo ha elogiato per aver guidato questa missione d'affari alla conquista del mercato indiano, perché le imprese americane hanno bisogno di questo mercato, l'America ha bisogno di queste grandi nazioni asiatiche che sono le nuove locomotive della crescita, e anche perché in qualche modo è sembrato l'inizio di un disgelo tra Obama e il mondo del capitalismo americano, il mondo del business, che lo aveva invece sistematicamente osteggiato durante la campagna elettorale. Ci sarebbero mille altri aggiornamenti, idee da questa costa del Pacifico asiatico, la vera nuova grande frontiera americana. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo con noi sempre Federico Rampini. Scegliela tu questa canzone. Sì, effettivamente la scelta della canzone può servire a ricordare che nella comitiva fantastica al seguito dei Beatles nel 68 in India c'era anche Donovan, un cantante oggi un po' dimenticato, ma una bella figura del pop dell'epoca, e allora ovviamente Mellow Yellow. I'm just mad about saffron, well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron, she's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Da Jakarta, al seguito del presidente Obama, è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.